I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi. Questo sì, avete il diritto di farlo. Ma non avete il diritto di giudicarmi. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici. Ricordo quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare dei bambini. Andati via dal campo, dopo averli vaccinati tutti contro la polio, un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo, non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Quegli uomini erano tornati e avevano mutilato a tutti quei bambini il braccio vaccinato. Stavano lì ammucchiate, un mucchio di piccole braccia. E mi ricordo che ho pianto come una povera nonna. Avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai. E a un certo punto ho capito. Come se mi avessero sparato un diamante. Un diamante mi si fosse conficcato nella fronte. E mi sono detto, oddio, che genio c'era in quell'atto. Che genio. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi perché riuscivano a sopportarlo. Non erano mostri, erano uomini. Squadre addestrate. Questi uomini avevano un cuore, avevano famiglie, avevano bambini, erano colmi d'amore, ma avevano avuto la forza di farlo. Se avessi avuto 10 divisioni di uomini così, i nostri problemi sarebbero finiti da tempo. C'è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere, senza sentimenti, senza passione, senza giudizio, perché è il giudizio che ci indebolisce. Grandi icone americane. Qualche giorno fa, nel pieno della mostra del cinema di Roma, è passato dalla capitale, dove peraltro è un abituale, lo si vede spesso in giro e quasi sempre in termini privati, Francis Ford Coppola, per ritirare un premio, tenere una conferenza e comunque mantenere caldi quei rapporti con l'Italia, che l'ormai 69enne regista americano ha sempre coltivato come un rapporto assolutamente particolare. Il premio in questione era un premio letterario, si chiama Le Cattedrali Letterarie Europee, ma è stato soprattutto l'occasione per Francis Ford Coppola per tenere una breve ma esaustiva, soddisfacente lezione di cinema americano, inteso poi come qualcosa che naturalmente va oltre il cinema di intrattenimento, il cinema hollywoodiano, che pure è una parte del tutto, no? È una parte della ideazione culturale di Francis Ford Coppola, ma nel cui cinema invece poi vanno a confluire stimoli, ma anche bisogni ben più ampi, bisogni d'artista e stimoli verso il pubblico, legati soprattutto alla celebrazione, alla esplorazione della cultura popolare, legati alla esplorazione di quel sentimento di americanità che poi proprio in questi giorni, no, post-elettorali, può andare a frugare all'interno della poetica di Coppola per trovare alcune motivazioni, alcuni luoghi comuni, alcuni stereotipi e anche alcune straordinarie celebrazioni. Il sentimento di americanità che fuoriesce da Apocalypse Now, che fuoriesce dalla saga del Padrino, con tutto quello che di oltre America, no? Di ultra America è contenuto in quella grande storia, ma anche in tanti altri film, Un sogno lungo un giorno, per dirne uno, o I ragazzi della 56esima strada, celebrazione della gioventù americana insieme a Rusty il selvaggio, Cotton Club, il cambiamento del paese, Peggy Sue si è sposata, la saga del rock and roll come stato mentale, lo spirito militare americano, l'esplorazione del mondo in film come I giardini di pietra e tanta altra America, quella dei grandi individui alla Tucker. E allora abbiamo deciso di farvi cosa gradita, ci auguriamo, dandovi ampio conto in una puntata monografica di questa lezione, di questa chiacchierata, anche di questa voglia di comunicare di Francis Ford Coppola. E partiamo, come abbiamo ascoltato subito dopo la sigla, naturalmente da Apocalypse Now, che resta comunque il monumento di questo maestro del cinema, e ascoltiamo Coppola che comincia proprio a parlare della ideazione di questo film e della complicata, faticata, dura stesura della sua sceneggiatura. And it would be sinful for me to accept any award for the writing connected with Apocalypse Now without... Commetterei un errore o un peccato se non affermasse e dichiarassi che comunque Apocalypse Now, la sceneggiatura, è una sceneggiatura originale scritta da John Melius, un famosissimo collega americano. For my part, I worked on the screenplay while I was directing it. And... Ovviamente devo dire che sì, è vero, io ho lavorato alla sceneggiatura mentre giravo il film, e forse sono io in un certo senso l'autore di questo avvicinamento del film e della sceneggiatura all'opera di Joseph Conrad, perché piuttosto che tenere nelle mani le pagine del copione, in realtà tenevo in tasca una copia economica in paperback del libro di Joseph Conrad, e quindi dove leggendolo poi tendevo a sottolineare le righe, a sottolineare dei punti che ritenevo importanti. Quindi sì, è vero che io l'ho avvicinato, però è anche vero che ci sono le cose forse più memorabili, più belle di questo film, sono il frutto della creazione di John Milius, quindi la battaglia con gli elicotteri e alcune delle forse battute più famose che sono rimaste nella storia. Wagner. E con l'elicottero, con la musica di Wagner. E questo era un qualcosa di contenuto. Era un qualcosa di contenuto nella sceneggiatura, quindi era una creazione di John Milius. Quindi devo dire che non potrei ricevere nessun premio se non comunque esprimendo il mio riconoscimento a John Milius e condividendolo con lui. Francis Ford Coppola nasce da una famiglia di origini lucane, i suoi nonni erano emigranti di Bernalda in provincia di Matera, e pensate che lui proprio lì è tornato negli ultimi anni e ha anche ampliato a quella zona la sua attività laterale, quella con cui poi finanzia alcune delle sue spericolate operazioni cinematografiche, aprendo resort magari destinati proprio al grande pubblico americano. Il papà di Francis Ford è Carmine Coppola, noto musicista jazz, Buzz, che ha suonato nell'orchestra sinfonica di Detroit. L'infanzia di Francis è segnata dalla poliomielite, che lo costringe a lunghi periodi di clausura o quasi. Poi il prematuro ma intensissimo amore per il cinema, già con una piccola cinepresa a 8 mm da ragazzino. A 10-12 anni Francis faceva le sue prove generali. Nel 1960 si laurea in teatro alla Hofstra University, la stessa che ha ospitato uno dei dibattiti, no, tra Barack Obama e John McCain, sembra tanto tempo fa. Ma ascoltiamo dalle parole stesse dello stesso Coppola all'inizio della sua storia professionale e soprattutto dello sbocciare del suo amore per il cinema. Di tutta la mia carriera, nel corso della mia carriera, io un po' ho avuto questa personalità duplice, divisa a metà rispetto a quello che avrei voluto fare nel mio futuro come carriera. Da una parte c'era il desiderio di questo giovane che voleva diventare un regista, voleva diventare un cineasta, magari come i registi di Hollywood, e quindi magari realizzare lavori tipo quelli, possibilmente diventare famoso e oserei anche dire ricco, cosa che peraltro si accompagna al fatto di fare regista a Hollywood. Dall'altra parte però, influenzato dal mio fratello, ero molto consapevole e cosciente di quello che è la letteratura, proprio grazie a lui, e quindi in fondo volevo diventare uno scrittore che realizza dei lavori che vengono dal cuore, che vengono dalla mente, quindi che scrive per esempio delle pièce teatrali o comunque che scrive dei lavori che sono a livello di quei bei romanzi che una volta eravamo abituati ad aspettarci come produzione quasi annuale dai grandi scrittori e che oggi sembrano essere un pochino, come dire, sfumati, appannata questa possibilità. But now in the era we live in now, this anticipation. Oggi però nell'epoca in cui viviamo, questa aspettativa che era quella che ci faceva dire oh, chissà quale sarà il prossimo capolavoro, il prossimo romanzo di chi che sia, di Hemingway, di Scott Fitzgerald, oggi tutto questo è stato sostituito dall'autore di bestseller che produce libri che incassano una marea di quattrini ma non necessariamente ci entusiasma in termini di letteratura. E da giovane vedevo i film che provenivano dall'Europa, i film che venivano dal Giappone negli anni 50, 60. L'Italia ha avuto in quell'epoca, in quel periodo, dei grandissimi registi. Dovrei stare qui più di mezz'ora per poterli forse citare tutti o in parte. E c'era la grande cinematografia francese, c'erano registi tipo Akira Kurosawa. Io mi ricordo da giovane studente, noi scrivevamo al comitato che procedeva alla selezione dei candidati per il premio Nobel, dicevamo noi nominiamo Akira Kurosawa come candidato per ricevere il premio Nobel per la letteratura, e ci rispondevano con una lettera che nessuno può nominare nessuno per il premio Nobel perché è il comitato che sceglie. E quindi sono rimasto molto male, mi ha intristito moltissimo vedere che Akira Kurosawa ci ha lasciati, se n'è andato senza che nessuno gli conferisse il premio Nobel per la letteratura, perché il cinema è letteratura. E ovviamente se appunto letteratura e teatro e drammaturgia sono i drammaturghi che meritano il premio, anche Akira Kurosawa lo avrebbe meritato, così come lo meritava Fellini, così come Bergman. Io ho preso coscienza a un certo punto per la prima volta che il cinema era una forma di letteratura, il che mi consentiva da una parte di soddisfare il mio sogno di infanzia, dell'infanzia, di essere un regista, e dall'altra al contempo di seguire quella che era per me l'ispirazione che mi dava mio fratello, quella quindi di operare, di lavorare nella letteratura. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. se c'è una canzone che raggiunge un fattore di evocazione immediata, è The End dei Doors, che immediatamente si connette alle immagini inquietanti e ipnotiche di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Ecco il regista che ora torna con altri ricordi della sua giovinezza, quando, allorché, come vi dicevamo poco fa, il suo primo amore e anche i suoi primi studi accademici erano appunto di carattere teatrale. Originally, when I was a student, I was a major in a university in theater. In origine, da studente, io frequentavo appunto l'università e la materia principale che studiavo era teatro, proprio perché volevo diventare un drammaturgo. Avrei voluto diventare un drammaturgo lungo un po' la scia di, appunto, in particolare in America, gli autori che avevano fatto grande anche il teatro degli anni 50, quindi volevo un po' seguire le orme di autori tipo Eugene O'Neill, Odette, Tennessee Williams, che erano i miei preferiti. Un pomeriggio non facevo nulla e un giorno passando vidi un cartellone pubblicitario, un po' una pubblicità che appunto indicava che c'era la proiezione di un film di Eisenstein, I 10 giorni che scossero il mondo. Era un film muto, io non sapevo di che si trattasse, però decisi di entrare, di andarlo a vedere e rimasi, come dire, illuminato, esattamente come Eisenstein col teatro. Così io, uscito da questo cinema, dalla visione di questo film, mi dissi che a quel punto io volevo fare il regista, che avevo scoperto che fondamentalmente il cinema era letteratura e che quindi io potevo scrivere con il cinema, potevo scrivere letteratura però scrivendo sceneggiature per il cinema. E poi, caso dei casi, all'età di 29 anni ho fatto Il Padrino e all'improvviso tutte le mie idee, tutte le mie aspettative in questo senso di diventare il tipo di artista, il tipo di cineasta che era un po' nella tradizione di quelli di cui vi ho parlato, praticamente sono andate perdute, buttate fuori dalla finestra, perché a quel punto sono diventato il ricco e famoso regista di Hollywood e quindi non ho più potuto realizzare le sceneggiature originali e scriverle così come avevo desiderato. I started writing plays and directing them when I was 18 years old. E quindi ho cominciato a scrivere pièce teatrali e a dirigere le cose originali quando avevo 18 anni. Poi a 29 anni ho realizzato Il Padrino e praticamente in tutto il tempo trascorso da quel successo, dai 29 anni fino ad oggi, e ne ho 69, sono riuscita a scrivere in tutto forse 3 o 4 sceneggiature originali. Una di queste è Rain People, Non torno a casa stasera, l'altra è La conversazione e forse basta, niente più. Proprio perché a quel punto non riesci più a fare quello che vuoi, devi in un certo senso inseguire il successo che hai avuto, lo devi riproporre, lo devi ricreare. Io in realtà del Padrino ne volevo fare uno solo e non tutti e tre, e invece alla fine li ho fatti. E quindi oggi mi trovo a Buenos Aires a realizzare un film ed è forse la terza sceneggiatura originale che sto realizzando, quindi mi trovo a 69 anni a fare quello che avevo voluto fare e che avevo cominciato a fare a 18. So that's my story. I think another happy side of the story, aside from my wonderful family and my children who are also filmmakers. L'altro lato positivo di tutto ciò, ovviamente, oltre al fatto di avere una meravigliosa famiglia con figli che anche loro lavorano nel mondo del cinema, è che sono stato abbastanza intelligente da prendere i soldi che avevo guadagnato durante i miei successi, con i miei successi hollywoodiani, e gettarmi in un'impresa, in un'iniziativa che sarebbe in un settore che sarebbe presto diventato molto popolare, molto famoso negli Stati Uniti, vale a dire la produzione di vino. E questo mi ha consentito di fare tanti soldi e quindi io ne ho fatti e continuo a farli. E a quel punto mi sono detto, ho 69 anni, mi posso considerare un gentiluomo in pensione, invece però di giocare a golf scrivo sceneggiature originali e mi produco i miei piccoli film. As you go out and knock the horn, it's Independence Day. But instead I just pour myself a drink. It's got love, I've never felt this way. Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescivo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia. E Davi è un boyfriend, non italiano. Se ne hanno cinema insieme, tornava a casa tardi. E io non protestavo. Due mesi fa, lui l'invitò in macchina con un altro amico suo. Le fecero bere whisky. E poi cercarono di approfittarsi di lei. Lei resistette. L'onore lo mantenne. E te la pestarono, come un animale. Quando arrivai all'ospedale, la sua faccia faceva paura. La mascella era rotta. L'avevano cosuta con fili di ferro. Meno piangere poteva, tanto ero male. Ma io piangevo. Povera figlia. E te era la luce degli occhi miei. Bellissima era. E ora non sarà mai più bella come prima. Andai alla polizia da buon americano. I due furono pigliati e processati. O giudici condannò, ma un avvieno precedente e ci dette a condizionale. Sospensione della pena. Li fecero uscire nello stesso giorno. Io restai dentro quell'aula come un fisso. E che dirò bastardi mi rirevano in faccia. Allora disse a mia moglie, per la giustizia, dobbiamo andare da Don Corleone. Ma perché andaste alla polizia? Perché non veniste da me subito? Che cosa volete, mia? Domandatemi tutto, ma facete quello che mi aspetto da voi. Sarebbe a dire? Io. Questo non lo chiedere. Io vi darò tutto quello che volete. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito. Non mi volevo mischiare in queste cose. Questo l'ho capito. Trovaste il paradiso tu in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si marita mia figlia e mi vieni a chiedere un omicidio a pagamento. Io vi chiedo giustizia. Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Chi tocca lei soffre. Decido prezzo e io pago. Il Il Padrino, ovvero quando Coppola raggiunge il suo formato monumentale assoluto, diventa in un certo senso, raggiunge il massimo ingombro, no, della propria poetica cinematografica. Pensare che il Coppola di oggi invece è un Coppola minimale, che realizza film stranissimi come quel Un'altra giovinezza dell'anno scorso, prima del quale, per trovare un altro suo film che poi è un film di genere, bisogna andare indietro di 10 anni, al 97, all'Uomo della pioggia, sicuramente una produzione minore nella filmografia di Coppola. Quindi è successo qualcosa tra passato e presente, forse si è sentito a un certo punto in ritardo, in anticipo, forse troppe erano le cose da fare, troppe sezioni da produrre. Ascoltiamolo in alcune riflessioni sul cinema d'oggi, che secondo lui fa rimpiangere quello di ieri. Unfortunately, we live in a time now where this type of movie is not. Purtroppo sono molto poche le possibilità di realizzare dei film che vuoi realizzare, film che vuoi. Oggi ormai si pone sempre il problema di realizzare un film che sia vitale, nel senso che renda, e questo purtroppo perché il pubblico ormai è sottoposto ad un'offerta di forme di intrattenimento molto diverse. C'è lo sport, anche le news e i notiziari ormai sono diventate una forma di intrattenimento. Il cinema de sé o il film de sé, come esisteva una volta magari negli anni 50, ormai è morto, non esiste più. E quindi io sono stato in un certo senso fortunato, sono fortunato perché posso continuare per un po' a fare quello che mi piace e che voglio fare e che volevo fare. Non so cosa succederà in futuro. Vi posso però raccontare una storia, una bella storia. Questo film di cui vi sto parlando è già girato, è completato, siamo nella fase di montaggio con un vecchio amico e collega, Walter Murch. Probabilmente ne avete sentito parlare perché è un vecchio collega di Milius, ha lavorato con noi da Apocalypse Now e in altri film. E mentre realizzavamo appunto il montaggio di questo film, lui a un certo punto mi ha detto: ma sai una cosa, Francis, ma sono 40 anni che facciamo questo mestiere. E io gli ho detto: sai che c'è, a me sembrano due, perché è esattamente questa la magia, l'entusiasmo del cinema. È un qualcosa dove tu non smetti mai di imparare e quindi sei sempre entusiasta, vuoi sempre continuare. E purtroppo però oggi il cinema non riesce a essere più questo. Io riesco a farlo. Qualcuno mi dice a volte: ma perché non scrivi un lavoro per il teatro? Perché non scrivi un romanzo? Io credo che invece non c'è nulla che possa sostituire la magia del cinema. È un mezzo nuovo. Abbiamo appena cominciato ad esplorare. È una nuova forma d'arte e quindi ci sono tante possibilità di sperimentare che ancora non conosciamo. E non c'è da meravigliarsi se forse alcuni dei capolavori del cinema, i film più belli, siano stati realizzati all'epoca dei pionieri del cinema, all'epoca del cinema muto, tra il 1919 e il 1927. All'epoca i registi, i cineasti erano dei pionieri perché nessuno diceva loro cosa non dovevano, non potevano fare. Quindi osavano, sperimentavano ed è questa la ragione anche per la quale oggi mi capita spesso di incontrare magari giovani ventenni e tutti vogliono fare registi. Io li capisco perché le loro sono le stesse ragioni che hanno spinto me a voler fare regista. Una volta Coppola, nel corso di una conversazione, mi disse una cosa che mi colpì. Aveva appena fatto Dracula, quindi nel 92, aveva all'incirca 50 anni o poco più, e mi disse: guarda, se io mi faccio quattro conti, vedo quanto ci metto a produrre un film mio, quanti film nella vita potrò ancora fare? 3, 4, 5, di più no, sicuramente ne vorrei fare 5.000. Come faccio a scegliere? Questa angoscia quasi mi paralizza. Questa è la filosofia, al tempo stesso bulimica e desiderante, di questo grande uomo di cinema e di cultura. Ora lo ascoltiamo rispondere alle domande del pubblico. La prima è piuttosto complessa, tra l'altro. Qual è il suo rapporto con la lingua? Se ne accetta le trasformazioni o se si considera un purista? I love language. Language is my last film, in fact, those two of you who may have seen it. Diciamo che a me piacciono le lingue, io amo le lingue e credo che siano qualcosa di molto prezioso, di molto importante. Quelle ne ho due persone che forse hanno visto il mio ultimo film sanno che è proprio concentrato su questo. Io sono in un certo senso per la conservazione di una lingua pura. Detesto quando dicono veggie, al posto di vegetables, quindi è come se noi dicessimo verdi invece che verdure. E detesto quando sul telefonino usano THS per dire grazie invece quindi di scriverlo per esteso. So che la lingua cambia, so anche però che l'inglese, e questo vale per qualsiasi altra lingua, è comunque una lingua molto ricca, piena di tante parole e molto bella, quindi sono e mi posso considerare un purista. Coppola e la realtà circostante, tanto più quando è una realtà inquietante, una realtà collettiva, politica, ma è irta, no, di misteri, come nei tempi del Watergate, durante il quale, probabilmente non per caso, lui realizzò un film altrettanto denso di segreti come La conversazione. Allora gli viene chiesto come oggi, con la tecnologia, le intercettazioni imperanti, se un film del genere sarebbe ancora possibile. You know, I didn't know about Watergate when I wrote The Conversation. I was intrigued. I always have. In realtà io non ne sapevo nulla del Watergate quando ho scritto la sceneggiatura, perché io sono un po' il ragazzo, un po' tipo topo di biblioteca, un po' il ragazzino scienziato che ama appunto conoscere, sapere, ma che magari non è tanto a conoscenza di quello che succede nel mondo, e comunque era questa un po' una delle ragioni per le quali mi piaceva il cinema. Io ho scritto la storia della conversazione come una sceneggiatura originale e non sapevo che all'epoca ci fossero appunto queste intercettazioni che erano alla base dietro lo scandalo del Watergate. Soltanto una volta appunto girato quasi verso la fine, qualcuno mi ha detto guarda che c'è questo articolo sul giornale che parla di questo scandalo. Io penso una cosa, che se si vuole essere liberi come scrittori, come sceneggiatori, come registi, bisogna in un certo senso scrivere le cose che ti vengono dal cuore, senza doversi preoccupare di dover inseguire quello che vogliono gli studios per poter fare i soldi, perché in questo caso e solo in questo modo l'artista, lo sceneggiatore, il regista possono fungere un po' da radar, possono essere in grado di percepire quello che sta per succedere o quello che succede nel mondo, in quanto l'artista è precisamente questo, e questo è il suo scopo, quello di vedere con un'ottica diversa, con degli occhi diversi, quello che succede. E il cinema, da questo punto di vista, secondo me è veramente un ottimo mezzo per farlo. E ora per Coppola una di quelle domande davvero da, no, delle 100 pistole, come si dice. È d'accordo Francis Ford sul fatto che l'arte, e quindi anche il cinema, debba aiutare a capire la realtà? Well, I agree. The purpose of art is to illuminate contemporary life, so we understand. Sono perfettamente d'accordo, anch'io credo che l'arte debba illuminare le persone, le vite, debba consentire, soprattutto considerata l'epoca in cui viviamo, ci debba consentire di capire meglio la nostra vita e di capire il mondo in cui viviamo. Credo che debba in un certo senso gettare luce su tutto ciò, su qualche cosa che oggi è sempre più difficile da capire, quindi ci debba facilitare questo compito, anche perché oggi sono tante le cose, le istituzioni, gli istituti che cambiano, il matrimonio, la politica, la nazionalità. Abbiamo quindi bisogno che l'arte ci aiuti, ci illumini in questo, proprio per poterci consentire di capire meglio, e credo che questo sia proprio uno dei ruoli dell'arte, che sicuramente ha impedito e bloccato laddove uno non può scrivere quello che vuole o non può fare il film che vuole, ma è costretto a fare il film che sicuramente porterà incassi e porterà quattrini. Red hot hoochie. Cosa siete voi? Io devo sapere. Dovete dirmelo. Io sono niente. Senza vita. Senza anima. Cosa volete dire? Odiato e temuto. Sono morto per tutta l'umanità. Ascoltatemi. Io sono il mostro che gli uomini che respirano bramerebbero uccidere. Io sono Dracula. Mina! È proprio da film come I ragazzi della 56esima strada, Rusty il selvaggio, Peggy Sue si è sposata, che si capisce, no? Che il rapporto con la giovinezza, la crescita, l'adolescenza, la fase di trasformazione, il momento magico restano dei temi centrali nella poetica di Francis Ford Coppola, a cui stiamo dedicando, diciamo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, una puntata monografica oggi di Jefferson Minga, questo grande maestro del cinema americano recentemente di passaggio in Italia. Ecco che si alza nel pubblico della sua conferenza un bambino piccolo, 7-8 anni, gli fa una domanda che naturalmente manda in solluchero il vecchio maestro. Qual è il film che di più l'ha ispirato nella sua vita? Well, many people ask me what my favorite film is. Molte persone mi chiedono quali sono, qual è il mio film preferito, però devo dire che benché il cinema sia molto giovane, soltanto 100 anni, è stato così prolifico che io potrei citare almeno un centinaio di film che mi sono piaciuti, che mi piacciono, che sono il frutto della produzione, della tradizione cinematografica. Quando avevo la tua età amavo i film inglesi di Cordell, tipo Il ladro di Baghdad, altri film del genere, però mi piaceva anche Biancaneve e i sette nani. L'altro monumento, accanto naturalmente al Padrino che ci coinvolge, no? A tutti, anche in modo critico, ci sono tanti italiani che lo amano, altrettanti che lo odiano, sentono lo stereotipo troppo ingombrante nel film tratto dal romanzo di Puzo. L'altro naturalmente è Apocalypse Now, il film che tratta in sostanza del rapporto dell'America con il mondo e del rapporto dell'uomo con il mondo interiore, con il suo mondo interiore, come Conrad dettava nei suoi romanzi. La domanda è diretta, di carattere geografico, ma naturalmente anche di carattere psicanalitico. Oggi dove lo ambienterebbe, per esempio, in Iraq, in Afghanistan? I've been asked many times, you know, because... Molte volte mi è stato chiesto che cosa farei oggi con determinati tipi di film, perché in un certo senso ti infilano in una specie di categoria come regista, e quindi pensano se hai fatto i film sui gangster che tu possa fare solo film di gangster o solo film di guerra. Se dovessi realizzare un film sulla guerra in Iraq oggi o in Afghanistan, penso che, appunto, se mi chiedessero di farlo, farei un film molto pacifico, farei un film che parla di una famiglia che cerca di sopravvivere in mezzo a tutti questi problemi, a queste avversità, una famiglia che però alla fine se la cava, non gli succede niente di male, vengono a bondi i bambini, si celebrano matrimoni, si celebrano delle feste, seguono la propria religione. Quindi se dovessi fare un film oggi sulla guerra, lo farei molto pacifico. E siamo arrivati alla fine dell'incontro con Francis Ford Coppola, a cui abbiamo dedicato questa puntata speciale, anche così un po' di relax, no? In vista del weekend, alla fine di una settimana che ha tutta l'aria di finire nei libri di storia, in cui è stato fatto un nuovo presidente americano. E che presidente? Allora si alza durante la conferenza un giovane studente del centro sperimentale, pensate, il suo cognome è Coppola, no? Nomen omen, e chiede al maestro qualche consiglio. Vi consiglio io la risposta, perché è imperdibile. Well, I mean, no one ever has any money or equipment when they're your age. It's always the same. The first thing I will suggest two things. The first thing I will suggest is to get married. Nessuno alla, in genere dispone dei soldi o delle attrezzature alla tua età. Due suggerimenti. Il primo, sposati. Because when you're married... Anche perché una volta che ti sei sposato, hai la tua famigliola, magari arriva pure qualche figlio, a quel punto veramente ti metti seriamente a lavorare, quindi rimani in piedi anche la notte, scrivi, lavori seriamente piuttosto che andare in giro a bighellonare e a perdere tempo. E io quando avevo 21 anni non avevo il becco di un quattrino, non ero nessuno, non avevo attrezzatura, mi sono sposato, mi sono messo a lavorare sodo e dopo 3 settimane ero già famoso. The second thing I would advise and really seriously. L'altro suggerimento che vi posso dare, cominciate con atti unici, cominciate a scrivere degli atti unici. Abbiamo una grande letteratura in America, in Italia, in Russia, una grandissima letteratura di atti unici che sono dei capolavori. Un qualcosa che non superi le 15 pagine, che quindi non richiede sicuramente soldi, non richiede due protagonisti, due attori. Cominciate così, cominciate a scrivere, magari poi realizzateli, metteteli in scena. Invitate il pubblico, perché in questa maniera veramente riesci a imparare, riesci a capire, riesci anche a capire che cos'è la recitazione, che cosa significa scrivere. Questo ti insegna molto anche sul cinema. Magari, non so, prendi un paio di amici, scrivete ciascuno di voi un atto unico, mettete 3 atti unici in scena, invitate del pubblico, vedete qual è la loro reazione, perché questo ti insegna tantissimo a capire appunto anche come fare cinema. Poi magari andare avanti un paio d'anni così e poi prendi in mano una macchina da presa e ti rendi conto di quanto sia meglio, di quanto capisci molto di più il cinema, perché oggi ci sono una marea di registi, perché impari le due cose fondamentali, la recitazione e la scrittura, perché ci sono oggi una marea di registi che non sanno assolutamente nulla né capiscono nulla di recitazione. Ci viene voglia di dire Coppola e gli altri, parlando e pensando al cinema americano degli ultimi anni. Quindi con soddisfazione abbiamo dedicato oggi una puntata anche appunto un po' di relax, no? Di distacco, di riposo, di riflessione al grande maestro americano, con tante poi radici e tanti terminali qui dalle nostre parti in Italia. Quindi grazie naturalmente a Coppola, grazie a voi per averci seguito, no? Tra speciali anche strani output di Jefferson Ming, anche in orari diversi a quelli consueti, in questa settimana così importante, così interessante, che apre scenari nuovi che riprenderemo a seguire come sempre qui da Radio 24 a partire da lunedì attorno alle 4. Buon weekend. Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.